Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sarà che sono nata in dicembre. Sarà che sono cresciuta a 1200 metri sul livello del mare. Sarà che non appena arriva l'autunno vado alla ricerca dei primi cristalli di neve. Sarà questo o chissà, forse non sarà nemmeno questo. Fatto sta che l'ultima settimana dell'anno, la 52esima, io la trascorrevo a studiare le valanghe. Mi chiamo Ilaria, vengo dalla Val di Sole, provincia di Trento, e dopo anni di ricerca nel campo valanghivo come ingegnere sono stata adottata dalla scuola. Voi lo sapevate quante settimane ha un anno? Vabbè, bastava fare una micro ricerca, Bonini allarga le braccia. Io prima del racconto di Ilaria non avevo proprio idea che fossero 52 esatte, e tra l'altro ho fatto una ricerca proprio velocissima che dice 52 settimane e un giorno abitualmente dura un anno. Sì, ok, basta sì, calmi dall'altra parte del casse, ho capito che basta fare due calcoli, però... Sì, sono 52 settimane e un giorno gli anni normali, bisestili, 52 settimane e due giorni. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, siamo sempre in onda anche nelle feste di Natale. Oggi è un venerdì qualunque, 28 di dicembre, ma non è un venerdì qualunque, perché è l'ultimo giorno della 52esima settimana, che... Sì, lo so che in realtà la 52esima settimana dura fino al 31 di dicembre, però diciamo per la settimana regolamentare oggi è l'ultimo venerdì dell'anno. Per questo motivo è arrivato il momento di raccontare la storia di Ilaria, che c'era arrivata da qualche tempo e ce la siamo tenuta lì in caldo, perché voi ci vedete così e pensate, vabbè, questi sono scemi, e invece no. Quando ci arrivano delle puntate che vanno bene per determinati periodi, le mettiamo da parte. L'abbiamo messa da parte e la mandiamo in onda oggi, ultimo giorno della 52esima settimana, perché quello che Ilaria ha fatto in quest'ultima settimana per diversi anni della sua vita è un mestiere che non è molto comune, perché non è molto comune andare in giro su un elicottero in cima alle montagne a guardare le valanghe che scendono, che poi non è che proprio le beccasse nel momento in cui scendevano, però più o meno andava là dove cadevano le valanghe. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì, ragazzi, è sempre quello lì, e voi siete qui, Radio 24. Che cosa avete fatto voi in questa ultima 52esima settimana dell'anno? 349-238-6666. Antonella scrive: la 52esima settimana, adesso fanno tutti finta di sapere che la 52esima è l'ultima, è quella in cui nella mia azienda si tirano le file dell'annata. Si tirano le fila, giusto, ok, dell'annata. È una tradizione che il vecchio proprietario non smette di portare avanti. I giorni tra Natale e Capodanno si consumano tra riunioni e incontri in cui ciascuno di noi dice cosa ha fatto e lui racconta quanto l'azienda ha prodotto. Bella. Ci si diverte da voi, eh? A volte è noioso, scrive Antonella, ma è un modo serio per chiudere l'anno. 349-238-6666. Sergio: ho passato questa 52esima settimana a letto con l'influenza e per dirla tutta me la sono anche goduta. Ho avuto una scusa per non comprare i regali. A Natale mia moglie e figlio sono andati a pranzo dai suoceri e io a casa a sonnecchiare e guardare fin sul divano. Auguro a tutti una prima settimana dell'anno come la mia ultima. 349-238-6666. È la 52esima settimana dell'anno e Ilaria una volta la passava così. Vi voglio raccontare una storia fatta di fiocchi di neve, di bianchi mulinelli danzanti nell'aria, di cristalli effimeri mossi dal vento e depositati sul viso. Sarà che sono nata in dicembre, sarà che sono cresciuta a 1200 metri sul livello del mare, sarà che ho visto tutte le puntate di Heidi, sarà questo o chissà, forse non sarà nemmeno questo. Fatto sta che la mia 52esima settimana dell'anno la trascorrevo a studiare le valanghe. Sono ingegnere per l'ambiente e territorio, difesa del suono, con una tesi sulle valanghe. Per molti anni mi sono occupata di valanghe in laboratorio e studi reali, al fine di ottenere dati che servissero a mappare le zone di rischio. Per la precisione studiavo valanghe di neve dense, perché per quelle polverose occorrerebbe andare un po' più in là, in Svizzera, che per me in realtà vorrebbe dire semplicemente scavalcare la montagna che corona la mia vallata. Per studiare, intendo dire, proprio uno studio di campo. Bardata come se fossi una collega di Robert Udion Perry o di Umberto Nobile, esploratori del Polo Nord, mi spingevo fino al fronte della valanga. La osservavo e poi salivo, su, fino alla corona del distacco, e riosservavo il tutto da un nuovo punto di vista. Guardare le valanghe può sembrare un'attività estatica, quasi onirica, e in parte lo è, perché lo spettacolo che offre un muro bianco che cade non è riscontrabile in molti altri luoghi o situazioni, però è anche un lavoro molto pratico, fatto di studio, fatica e freddo, molto freddo. A volte poi, in primavera inoltrata, si sorvolava la stessa zona valanghiva per dedurne dall'alto ulteriori informazioni. Lo spettacolo che ti si mostrava dinanzi era sempre mozzafiato. Una lingua bianca imbrigliata tra due file di sentinelle, che nell'inverno passato l'hanno sfidata e che ora ne riportano le ferite nel tronco. Sentinelle vestite di verde, che scortano questi cristalli ribelli fino a valle, dove li attende un delizioso tappeto erboso con i primi fiori dell'anno. Capitava spesso in primavera di vedere fare capolino tra le rocce solide marcatrici del tempo, i cuccioli di camoscio, che saltellavano con i loro zoccoli insicuri, per poi scivolare e slanciarsi nuovamente su questo morbido cuscino di neve, quasi a volere dimostrare di non averne timore. Queste rocce e queste creste, assieme alle guglie dentate, sono testimoni silenti dei bianchi boati, dei roboanti distacchi che solo l'eco, custode del silenzio, rimanda di valle in valle. Quello che ti colpiva maggiormente in queste uscite era la luce, che rivestiva di colori accesi e brillanti il risveglio della natura e inondava il cielo blu, sopra il rotore dell'elicottero, che ci spingeva a fine giornata verso il primo rifugio abitato, dove sorseggiando una tazza di tè con il rum, attraverso il racconto, si rafforzava quell'emozione appena vissuta. Vedere una valanga è sempre una sensazione di scoperta, allora come adesso, sia che essa sia brigliata in una canaletta di laboratorio oppure scenda su un pendio naturale. Prima però che la vostra fantasia voli assieme all'elicottero, vi dico subito che per il resto dell'anno svolgevo ricerche in laboratorio, simulando proprio delle valanghe. Non ci crederete, ma si possono simulare, oltre che i terremoti, le alluvioni e le frane, sì, anche le valanghe. Anche se qui in laboratorio non hai bianchi mulinelli danzanti nell'aria e cristalli effimeri mossi dal vento. Sapete come funziona una valanga? Ne ho già parlato di questo argomento, solo che è una cosa che mi affascina terribilmente e la storia di Ilaria me l'ha fatto tornare fuori in modo dirompente. Dunque, innanzitutto, una valanga è un fenomeno naturale che si verifica quando una grande massa di neve o di ghiaccio improvvisamente si stacca dalla montagna e inizia a scivolare a valle, travolgendo tutto quello che incontra sul proprio cammino. La velocità a cui viaggia la neve che si stacca raggiunge e talvolta supera i 300 km all'ora. E la massa aumenta notevolmente durante la discesa a valle, fino a raggiungere dimensioni gigantesche e una forza distruttrice incredibile. L'aumento della massa si verifica perché la valanga, precipitando, raccoglie con sé e stacca anche la neve che incontra sul proprio cammino, trascinandola con sé in quella corsa folle lungo il fianco della montagna. E non so se vi è mai capitato di vedere una valanga. Non in TV, non quella di Fantozzi dopo che ha digerito tutta l'acqua gasata, no, dal vivo intendo. A me è capitata di vederla su una pista da sci. Non lungo la pista da sci, ovviamente, altrimenti non sarei qui a raccontarlo, ma in un canalone che era dall'altra parte della valle. E sapete come me ne sono accorto? Per via del rumore. Perché una valanga che scende lungo il fianco di una montagna fa un rumore inimmaginabile, se si considera che è solo pulviscolo di acqua ghiacciata. E poi c'è un'altra cosa che mi incuriosisce delle valanghe, ed è che la metafora delle valanghe viene usata molto spesso, e viene usata soprattutto quando si parla di crisi. Ad esempio, ogni volta che qui in radio, ma o alla televisione anche, sento usare la parola crisi, a me viene subito in mente quella cosa lì. Mi viene in mente il rumore e la sensazione di inarrestabilità che ho visto in quell'onda bianca che cade da una montagna e travolge senza rispetto tutto, alberi, rocce, altri alberi, case. Case fortunatamente in quel caso non ce n'erano, perché di solito non si costruiscono là dove una valanga può cadere. Questo però è un accorgimento che nella vita di tutti i giorni non sempre prendiamo. Cioè, non sempre quando lavoriamo, quando viviamo la nostra vita, stiamo così attenti a non costruire case laddove potrebbe scendere una valanga. E il più delle volte non lo facciamo perché pensiamo che una valanga lì non potrebbe proprio cadere. Perché non prendiamo nemmeno in considerazione l'ipotesi. Perché in certi momenti, quasi, non sappiamo nemmeno che cosa sia una valanga. Quando siamo travolti dal fascino del lavoro, del denaro o dell'amore, non prendiamo misure di sicurezza. Accumuliamo le cose come se quella fosse l'unica ragione di vita. E più abbiamo fame, e più mangiamo. E più mangiamo, e meno ci sentiamo sazi. Poi però arriva un momento impercettibile, un momento in cui si alza la temperatura, anche di pochissimo, e anche solo di mezzo grado. Oppure arriva un'onda d'urto provocata da qualsiasi cosa, e all'improvviso, senza preavviso, senza dirlo a nessuno, si crea una crepa minuscola. E la valanga viene giù. E non viene giù per gradi. Non viene giù solo la parte inutile, quella in sovrappiù, quella che avevamo accumulato in maniera dissennata. No, viene giù tutto. Sin dall'origine, sin dall'inizio. Fin nella parte buona. Io non lo so come nasce una crisi economica, finanziaria, globale e devastante come quella che stiamo vivendo da 3-4 anni ormai a questa parte. Non so nemmeno perché nascano le crisi personali o di coppia. Non ho mai capito quali siano le dinamiche che stanno alla base di quelle crepe che si formano in strutture che fino a un attimo prima erano solide. So però che l'effetto non è gentile, non è dolce. L'effetto è sempre devastante, è sempre totale. Perché ogni crisi è come una valanga che non dà scampo e non chiede permesso, ma soprattutto non dà alcun preavviso. La cosa però che ho imparato andando in montagna, e un po' mi rincuora, è che nel 90% dei casi è l'uomo stesso a innescare la cascata di neve. Come a dire che le valanghe non vengono giù per caso, ma che, per quanto improvvise, c'è sempre una causa che le scatena. Questo non mi mette al riparo né dalle crisi né tantomeno dalle valanghe, ma sapere che ci sono persone come Ilaria che le studiano un po' mi fa stare tranquillo. Arriva un messaggio di Sally che scrive: io in questa ultima settimana dell'anno, la mia 52esima, ho cucinato per 24 ore al giorno, tutti i giorni, e non sono una cuoca. Questa è la 52esima settimana per tutti, e chissà cosa ha fatto Ilaria, se è ancora andata in giro a cercare valanghe. Pronto, Ilaria? Pronto. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao Matteo, io sto bene, tu? Io sto benone, grazie. Senti, tu adesso fai altro, giusto? Non sei più sui pendii o sugli elicotteri? Io faccio altro, sì, sono una docente di una scuola professionale di Trento e sono anche coordinatrice didattica. E cosa insegni? Io insegno matematica. Ma perché la tua formazione è di ingegnere, giusto? Tu sei un ingegnere ambientale e quindi di conseguenza puoi insegnare matematica. Cosa si può insegnare? Matematica, fisica? Matematica e informatica. Quindi la tua poi vita... Poi si integra lo statino, si possono insegnare varie materie. Ok, immagino chiaramente di carattere scientifico. La tua vita è cambiata radicalmente, direi, rispetto a quando eri sugli elicotteri a guardare e a studiare valanghe che cadevano. È cambiata, sì. È cambiata anche se pensavo che anche i miei ragazzi in aula sono una valanga alla fine che ti travolge e ti assorbe con la loro energia, quindi... Cambia solo lo stato di valanga. Per quanto tempo hai fatto quel mestiere lì? Il nome esatto cos'è? Ricercatrice nel campo valanghivo, no? Sì, ricercatrice nel campo valanghivo. Sono stata per 3 anni e mezzo all'università e poi con periodi anche di formazione all'estero, soprattutto in Svizzera, a Davos, dove c'è il centro studi neve valanghe. Senti, e qual è il... Perdonami la domanda da ignorante assoluto. Qual è il senso ultimo nello studiare una valanga che cade? Studiare le valanghe, oltre che è bello per chi vede cadere una valanga, serve per la mappatura di zone a rischio. Alla fine si fanno simulazioni in laboratorio oppure anche ricerche sul territorio per arrivare a suddividere l'area d'arresto della valanga in diversi colori, che possono essere rosso, giallo e bianco per la normativa italiana, che sono finalizzati alla pianificazione edilizia. Ah, state okay. Zone valide dove il terreno non è disponibile. Quindi capire dove si può costruire e dove no, esatto. In sostanza. Non ha a che fare con il tanto di moda global warming e capire se la temperatura si sta alzando. La glaciologia. Oh, ok. È leggermente diversa. Una... Ok, proprio un altro campo. Un altro... Ci sono vicini, ma è un altro settore. E come si finisce a diventare ricercatori nel campo valanghivo? Come ci si arriva? Come sì, certo. Come si parte, come ci si arriva lì, insomma. Si frequenta l'Università di Ingegneria, poi si vede che la propria passione era, per quanto mi riguardava, tutti i rischi naturali, le calamità naturali e soprattutto i rischi valanghe. E quindi... A Trento c'è anche la sede della INEVA, che è l'Associazione Internazionale Neve Valanghe, e quindi sono sempre stata affascinata da questo campo delle valanghe. Quanto rumore fa una valanga che viene giù? Dipende da che tipo di valanga è, se una valanga polverosa o una valanga di neve densa. Però in sostanza da tanto a poco, vuoi dire? Come una grande onda dell'oceano che si infrange. Ah, ok. E senti, e invece stiamo parlando per sommi capi, ovviamente mi perdonerai Ilaria, la mia prosaicità, ma quante in percentuale, quante valanghe, delle valanghe che cadono sono causate dall'uomo? Questo dipende un po' dalla zona, se è una zona come la Val di Sole, una zona di impianti sciistici, dove c'è tantissima gente in montagna, e soprattutto sci alpinisti che vanno sui crinali e possono causare distacco valanga. Cioè fuori dalle piste in sostanza. Fuori dalle piste, esatto, che è rischiosissimo, vietatissimo, però può accadere. Diciamo che quelle causate dall'uomo sono poche, sono più quelle naturali e sono anche quelle, che causano danni all'uomo, le valanghe. Se ne sente sempre parlare perché sono forze della natura che possono diventare distruttive, causare anche morti, però ci sono eventi naturali che accadono tutti gli inverni, in silenzio, a parte l'onda frangente, e che si scoprono solo perché li si va a cercare. Senti, invece quanto studiare le valanghe influisce sulla vita sociale di coppia, ad esempio, di un ricercatore? Ma è bello perché, come leggerai nel mio racconto, alla fine di ogni studio ci si ritrova poi tutti assieme a bere un tè caldo, perché le temperature non sono miti per niente. No, quindi immagino che si crei un grande spirito di gruppo, però il fatto di fare un mestiere che può essere considerato pericoloso, lo è pericoloso questo mestiere innanzitutto? No. Non è pericoloso, è tutto in sicurezza. Ovviamente non è che si va in un canale valanghivo, conosciuto come tale, in pieno inverno, a studiare la valanga prima che sia caduta. Okay. Si studia quando è caduta, e quindi di solito avviene o all'inizio dell'inverno, e quindi nella 52esima settimana, o prevalentemente per le nostre Alpi in primavera, col primo caldo, quindi disgelo e la neve cade. Immagino. Senti Ilaria, poi ti saluto e ti lascio andare, anche perché siamo nei giorni di festa, e tra pochi giorni è Capodanno e quindi immagino tu stia facendo altro. Però adesso le scuole sono chiuse perché è vacanza, ma a dicembre ad esempio qual era l'argomento di matematica che hai trattato con i tuoi studenti? Cosa stavi insegnando? Abbiamo studiato le unità di misura. Metro cubo, metro quadrato, con simulazioni proprio laboratoriali, quindi abbiamo proprio creato un metro cubo e un decimetro cubo e l'abbiamo riempito di acqua per vedere quanto pesava. Mazza, a Trento siamo avantissima anche con la scuola superiore. Ti ringrazio moltissimo Ilaria per la storia, la chiacchierata e auguri per il nuovo anno. Grazie, tanto. Ciao Ilaria, grazie. Ciao. Non ci ha mandato una sua foto Ilaria, però l'abbiamo accettata comunque perché è una foto bellissima ed è la foto di una valanga direi in primavera, perché in primo piano ci sono dei fiori che spuntano e c'è erba e tutto verde. In secondo piano un laghetto e dietro il laghetto questa chiazza bianca a forma di V rovesciata, che è scesa chiaramente da un piccolo canale che si trova sopra. Lei mi ha anche scritto una sorta di didascalia che vi leggo precisa precisa. Valanga primaverile, esempio di semplice distacco e accumulo neve a fine pendio, lago Erdemolo, valle dei Mocheni, Trento. Valanga, sostantivo femminile. Massa di neve che, staccatasi dall'alto di un pendio e rotolando verso il basso, assume dimensioni sempre maggiori, trascinando e sommergendo quanto incontra lungo il percorso. Nel linguaggio sportivo, una squadra di sciatori quando i suoi componenti vincono e si piazzano a ripetizione, la valanga azzurra. Figurato, quantità stragrande, spesso associata a un'idea di impeto, di movimento travolgente. Nel gioco del calcio, uscita a valanga, azione impetuosa e coraggiosa del portiere che si butta a corpo morto sui piedi dell'avversario, lanciato, palla al piede, verso la rete. Cioè, lanciato è l'avversario, non il portiere, giusto? In fisica, scarica a valanga, quella che si instaura in un isolante sottoposto a un campo elettrico molto intenso, tale che i portatori di carica raggiungono energie cinetiche elevate, ionizzando per urto le molecole circostanti, così da creare un'intensa corrente di scarica. Etimo, metatesi di lavanca, derivato del latino labina. Data 1803. Io non ne posso più di queste cose. Ancora una volta grazie alla nostra Alessandra De Luca e alla sua voce fuori dal tempo e dallo spazio, che potrebbe essere stata registrata nel 1950 durante un giornale radio AIR, oppure oggi nel 2012 qui a Radio 24. Io prima, leggendo la didascalia che ci ha mandato Ilaria, ho pronunciato lago Erdemolo in Trentino e spero che sia così. Non ho avuto conferma di là nessuno dal vetro, manco Scaltriti che è arrivato dice Erdemolo, Erdemolo. Niente, Cantadore, figuriamoci, Laina e Bonini, li conoscete. Ci sono un sacco di foto che ci ha mandato Ilaria e direi che sarebbe bello se le pubblicassimo tutte. Possiamo pubblicarle tutte le foto su Facebook? Allora ragazzi, un mese fa è uscita una recensione su questo programma che diceva che siamo già la radio del futuro, sulla stampa, ve lo giuro, non l'avrete vista, ma diceva il programma, i racconti, lo storytelling eccetera eccetera, e poi le foto che potete vedere su Facebook o su Twitter, è già la radio del futuro. Quindi essendo la radio del futuro dobbiamo poter mettere tutte queste foto, perché ce ne sono due che sono la simulazione di una valanga fatta in laboratorio, come ci raccontava prima Ilaria al telefono, che è fatta con, credo, della sabbia probabilmente particolare, che in base a come scende fa disegni diversi, guardate che bello, fa disegni diversi che sembrano dal fiore al a un pugno chiuso. 349 238 6666, si parla della 52esima settimana, questa qua, dell'ultima settimana dell'anno. Cosa state facendo anche oggi, un giorno qualunque di 28 dicembre, mica tanto qualunque, l'ultimo giorno della 52esima settimana. Saverio, questa settimana l'ho passata, a voi capita mai quando leggete un nome di uno, che non è lui chiaramente, ma uno che vi sta un po' sulle palle, avete presente? Io penso subito a quello là, non mi viene voglia di leggere adesso il messaggio. No, aspetta però, Saverio, potrebbe anche essere la traduzione italiana del nome del capitano. Saverio, questa settimana l'ho passata in treno, ero partito per la Puglia, dove vivono i miei. È pure pugliese questo qua che conosco. No, niente. Saverio, mi perdonerai questo messaggio. Niente contro la Puglia, contro i pugliesi. Però ci sono troppe similitudini. Il nome, il luogo. Paola, ultima settimana trascorsa ad ascoltare tutti i podcast di Voi Siete Qui e la playlist di Tiziano Bonini. Grazie mille. Paola, contenta te. 349-238-6666. Voglio leggervi oggi una storia che noi chiamiamo seconda storia, perché è semplicemente la seconda storia della puntata, che è una storia che ci è arrivata verso metà dicembre, quando vi chiedevamo storie natalizie. È una storia che parla del capodanno forse più famoso degli ultimi anni, il capodanno del 1999, quello del Baco del Millennio. L'ha mandata Lucia e si svolge a Parma. La mora e la bionda. Due tubini di velluto diversi solo nella scollatura. Due corpi magri ma non troppo. Due modelle da strapazzo. Vestite uguali, nere, dalle spalle ai piedi. Altro che diete drastiche, altro che grande mela in C, altro che stilisti stravaganti. Vuoi mettere i cappelletti al posto del superalcolico? O la vasca in via Cavour al posto delle passerelle di Parigi? L'abito riciclato al posto di tutti quei vestiti da cambiare ogni 5 minuti? A San Silvestro l'importante è nascondere qualche cosa di rosso sotto l'abito, come la giarrettiera sulla gamba sinistra. Rosso come il semaforo che interrompe la nostra corsa qui in città. Il mio pensiero va a questa mezzanotte che sta per arrivare, all'istante in cui salterà la corrente elettrica. Cosa succederà? Dobbiamo essere pronte. Dobbiamo affrontare il Millennium Bug. Con l'inizio del nuovo anno, i computer scambieranno il 2000 col 1900 e andranno in tilt, causando un cortocircuito globale. Sulla Terra calerà la notte più buia dell'era moderna. Si spegneranno pure i semafori. O almeno dicono. Decidiamo di rifugiarci dentro il bar più in voga del momento, quello sul viale della stazione. Il marciapiede è deserto. Silenzio. La porta d'ingresso è aperta. Noi varchiamo la soglia, spavalde. Non c'è nessuno. È vuoto. Io mi fermo e la bionda invece arriva trafelata in mezzo al salone. Da una porticina lontana, una voce femminile annuncia che il locale è chiuso al pubblico. Diventiamo statue. Dalla porticina fanno capolino 4 o 5 persone e una donna ci invita a restare per un brindisi in compagnia. La mia amica soffoca un urlo e cominciamo a correre all'indietro, balbettando qualcosa tra i denti. Fuori le nostre risate rimbombano tra le case e il vuoto delle strade. E poi su in macchina di nuovo, diretta in centro. Lasciamo l'automobile di traverso, come se le righe fossero a lisca di pesce, e ci incamminiamo verso Piazza Garibaldi. Svoltato l'angolo, ci troviamo al centro di un campo di battaglia. La piazza è piena di petardi, raudi, mortaretti, volano ovunque. Panico, un uomo mi offre un bicchiere di spumante. Lo afferro, ma non faccio in tempo a portarlo alla bocca che qualcuno mi dà una spinta. Il liquido si rovescia, il bicchiere finisce chissà dove. Resto in piedi, ma una corrente umana mi trascina via, dentro il caffè più chic della città. Affollatissimo, luminosissimo, da strizzare le palpebre. I tavoli sono tutti occupati e allora ci mettiamo in coda alla cassa per prendere un pacchetto di caramelle. L'atmosfera avviluppa le nostre menti frastornate. Quando usciamo dal caffè, in piazza, non c'è quasi più nessuno. La notte comincia adesso. Saliamo in macchina e ripartiamo. Ecco, tra l'altro Lucia non lo dice nella sua storia, ma lo diciamo noi. Il bug del millennio poi alla fine si è rivelata una bufala, nel senso che non accadde nulla. I computer non andarono in palla, gli orologi nemmeno. E fortunatamente, insomma, siamo ancora qui. Oggi 28 dicembre 2012, mi ha riscritto Saverio, 349-238-6666. Mi dice, è impossibile che sia io e te non ci conosciamo. Saverio, devo dirti una cosa che potrebbe non piacerti. Lui, questo Saverio che mi sta sulle palle, non mi conosce, ma lo conosco io. Quindi potresti anche essere tu, Saverio. Mi spiace. Oh, guarda, davvero, non ce l'ho con te. Non prendertela. Era anche un bel messaggio, tra l'altro, che diceva che era stato in treno tutta l'ultima settimana. Però, Saverio, mettiti il cuore in pace e inizia un buon 2013. Silvio, la 52esima settimana di quest'anno è stata la peggiore di tutto l'anno e non vedo l'ora che finisca. Tieni duro, che mancano un paio di giorni. Federico, ho trascorso quest'ultima settimana cercando un volo per partire ai primi di gennaio. Sono solo e non ho vincoli, pensavo di essere liberissimo e invece sono passato dall'Argentina alla Thailandia, da New York al Brasile e non ho ancora scelto dove andare. Vi prego, datemi una scadenza. Ma mi spiace Federico, ma purtroppo oggi abbiamo l'aria un po' così e quindi non diamo consigli a nessuno. Io ringrazio però Ilaria che ha mandato la sua storia e che ci ha raccontato di come si guardano e si curano e si studiano le vacanze. Le slavine, le valanghe, insomma, ci siamo. Io ringrazio però Fabio Cantadori, Margherita Ina, Tiziano Bonini e torno a ringraziare ancora Ilaria. La sera di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Anna Maria, vivo in Franciacorta, in provincia di Brescia. La storia di lunedì è la mia e parla di un compleanno il 31 dicembre. Questa è la mia storia e io sono qui.